Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ecco, siamo finalmente insieme. Buongiorno da Nicoletta Carbone. Sono superflui, ma evidentemente non se ne rendono conto, non se ne curano, se ne fanno un baffo. Parlo dei peli, continuano a crescere indisturbati e il disturbo lo creano a noi donne in particolare, ma anche agli uomini, che noto ultimamente abbastanza sensibili a questo problema. No, è tutto bene, okay. Eccolo, è lui. Bene. Ciao, come va? E questa è la prima volta che si fa la ceretta? Sì, sì, la prima. Via la camicia. Ok. Oh, portate tutta la cera! Eccoci qua. Oh, è calda comunque. Hai una bella pelliccia, c'è anche a maniche lunghe. È pronto? Andiamo. Ichi, ni, san. Oh, oddio! Oh, tesorato, tesorato, fa solo il suo lavoro. Vuole che interrompiamo? No. Mi dispiace. Non fa niente. Bene. Ancora una. Wow, certo non me l'aspettavo così, non me l'aspettavo affatto. Puoi farcela. Wow. La prima è l'unica che fa male. Sì, attacca i peli più fitti. Tempi duri per i peli e credo che nessuno di noi vorrebbe essere al loro posto, perché non deve essere bello nascere, crescere sotto uno sguardo di disapprovazione e vivere con la paura di essere strappata. Allora mettiamoci per un istante nei loro panni. C'è un loro portavoce in linea. Buongiorno, signor Pelo. Non sono superfluo, non sono superfluo, di vero. Ma, signor Pelo, ci dà parecchio fastidio. Lo so, ma anch'io devo vivere. Poi cresco in posti che non mi piacciono. Una volta nel naso, una volta sulla testa, una volta sulle spalle. E mi tagliano sempre. Non voglio. Ma, signor Pelo, come possiamo diventare più amici? Ma curatemi, scusa. Sì, il pelo c'è da quando è nato l'uomo di Neanderthal, che era pieno. Perché volete toglierci? Perché? Ma perché voi vi accanite e crescete sempre nei posti sbagliati? Perché siamo distratti, non è colpa nostra, però dovete farci vivere. Oh. Liberi i peli. Viva i peli! Viva sempre. I peli! L'avete riconosciuto, è Fabrizio Fontana. Ciao Fabrizio! Ciao! Certo, è dura essere pelo, eh. È durissimo. Io ne ho fatto una dimensione umana, quindi era ancora più invadente. Però, insomma, alla sua vita, poverino. Senti, quindi tu stai dalla loro parte, i tuoi stanno al sicuro. Sì, più o meno, perché alla fine poi purtroppo con l'andazzo che c'è veramente nella vita reale, l'uomo che è più peloso, che è nato così, poi come sentivo prima e come è la verità, tra cerette e tagli e estirpazioni, poverini, questi hanno la peggio. Provate anche voi il dolore. Senti, ma tu da uomo, secondo te, quali sono le zone in cui i peli esteticamente sono più brutti in un uomo, più fastidiosi o quelli che creano più problemi? Ma guarda, io ho scritto un pezzo di cabaret che parlava proprio del pelo e quindi del fatto che i peli sulla schiena, per esempio, capisco che siano un po' antiestetici. E succede che quando si invecchia solitamente si perdono i capelli e crescono i peli sulla schiena. Allora sappiate, perché questa è scienza, che i peli sulla schiena non sono peli, sono i capelli che sono caduti sulla schiena che germogliano. Sì. Una seconda vita. La seconda. Si è rincarnato o rincarnito, la seconda. Senti Fabrizio, donna baffuta. Che schifo. No. Se tu vedi che una tua amica, perché capita, ha un baffetto nero, tu fai finta di niente, glielo dici senza peli sulla lingua, oppure cerchi di fissarla, no? In modo che lei se ne accorga da sola. Ma agisco un po' con l'ironia, inizio a chiamarla Sanchez alla messicana, così che lei possa intuire che forse quel baffo alla Vittorio Emanuele tirato in su tipo non tira baci. No, assolutamente. Senti Fabrizio, io ti saluto, so che tu hai da fare e dato che noi ti seguiamo passo passo, pelo pelo direi, esatto. Dimmi che cosa stai facendo. Sono in giro per l'Italia con i miei spettacoli, ove viene rappresentato anche il mitico pelo antropomorfo, per cui dove vedete spuntare un pelo, io lì ci sarò. E noi saremo con te. Ciao Fabrizio. Grande, un bacione. Un bacio ciao, ciao a te. Allora, voi, scusate, mi viene ancora da ridere, che rapporto avete con i vostri peli e con quelli del vostro partner? Avete in corso una guerra con loro? Ci state pensando? Ci avete rinunciato? Chiamateci 800 24 0024. Ma come Laura Vanossi mi suggerisce, mi insegna, siamo anche su Facebook e sempre al 349 238 6666. Laura Vanossi è sempre in redazione, Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, e qui in studio con me Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene. Ciao Alessandro. Ciao Nicoletta. Nel numero in edicola siete anche voi pelosi. Siamo pelosissimi, perché questo è un argomento che, come giustamente dicevi tu, si sta allargando dal mondo femminile al mondo maschile. Abbiamo raccolto con grande facilità tutta una serie di domande che hanno fatto le nostre lettrici. E noi parliamo dei peli di ritorno, nel senso che quei non peli, quelli della schiena, non i capelli che si impiantano nella schiena, ma parliamo di quei peli che nascono a persone che non avevano il problema, quindi legati, non so, all'uso di farmaci, al sovrappeso, all'obesità. Può succedere, come vedremo, come sentiremo nella tua trasmissione, immagino. E quindi, come dire, un tema molto caldo. Se poi non vi tocca, preparatevi, perché potrebbe toccarvi un pelo. Poi non stiamo parlando di una cosa terrificante, anzi, con soluzioni assolutamente alla portata di mano. Abbiamo in linea con noi la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri. Sì, buongiorno. Ciao Nicoletta, ciao Alessandro. Ciao. Scusa, sto ancora ridendo. Sì, ma me l'ha detto perché è dura essere pelo. Sì, dottoressa Serri, infatti Filippa Oreggi mi diceva dalla regia, la dottoressa Serri si sta facendo delle grasse risate. Ho detto, speriamo che prenda fiato, perché starà con noi tutta l'ora a disposizione dei nostri ascoltatori. Ci sono, dottoressa Serri, peli e peli da record. Appena uscita la nuova edizione 2011 del Guinness dei primati, ascoltiamo. L'uomo più peloso del mondo si chiama Yu Zhenhuan, musicista rock cinese. Ha peli su tutto il corpo. Il 96% della sua pelle, esclusi i palmi delle mani e dei piedi, è coperto da una media di 41 peli ogni centimetro quadrato. Qualche anno fa aveva persino subito un intervento particolare all'orecchio, perché i troppi peli gli avevano causato la perdita parziale dell'udito. Attraverso internet, con il suo ironico nickname Wool Boy, ragazzo di lana, ha conquistato la donna della sua vita, con cui quest'anno convola a nozze. Il pelo della gamba più lungo del mondo appartiene invece all'americano Wesley Pemberton, un giovane che ha un pelo lungo 16,51 cm. Prima di lui, il record era detenuto da un pelo che misurava 13,39 cm, appartenente ad un uomo australiano. I peli che spuntano dal centro dell'orecchio esterno di Radhakant Bhaipai, indiano, misurano l'incredibile lunghezza di 13,2 cm nel punto più lungo. Radhakant ha commentato così l'inserimento del suo record molto personale nel libro del Guinness. «Entrare nel Guinness dei primati è un'occasione davvero speciale per me e per la mia famiglia. Dio è stato molto generoso con me». Dottoressa Serri, ma io non mi posso immaginare un pelo lungo 16,51 no, centimetri. Ci sono da dire un po' di cose, perché il pelo non è che sia... Cioè, noi nella nostra cultura, in questo periodo storico e sociale, consideriamo la peluria come qualcosa di obbrobrioso. Ma per esempio, la donna baffuta, hai presente Frida Kahlo, era molto amata da Diego Rivera anche per i suoi baffi, che noi reputiamo brutti. Poi c'è pelo e pelo, c'è il pelo patologico, questo che, poverino, era diventato addirittura sordo perché aveva troppi peli nelle orecchie, anche qui viene da sorridere, però oggettivamente sono delle situazioni di malattie congenite, ci sono delle ipertricosi congenite che finiscono nel Guinness dei primati, ma pensa a te come vivono questi uomini scimmia o donne scimmia, insomma, sono abbastanza in una situazione drammatica. Per arrivare alle nostre situazioni, noi dobbiamo ben distinguere le situazioni di irsutismo, ovvero di peluria che cresce laddove nel sesso femminile non ci dovrebbe essere, per esempio sulle spalle, sull'addome, sulla linea alba, in viso, nella regione del, proprio delle basette, dei baffi, quando è proprio troppa, al collo, e ipertricosi patologiche, come diceva prima Alessandro, legate anche a delle situazioni metaboliche, legate a farmaci che si assumono. Ci sono dei farmaci che vengono addirittura utilizzati per il loro effetto collaterale di far crescere peli e capelli, che però possono dare peluria eccessiva. Sono farmaci che si usano in genere per situazioni serie. E poi arriviamo all'ipertricosi o peluria eccessiva, quella che esteticamente non piace, che è quella che porta a radersi, che per esempio mi viene da ridere oggi, ma penso alla pubblicità del Rasa il Pratino, l'hai presente, ecco, che porta addirittura delle mode di pelurie, di forme, di dove averli, di dove non averli. Quindi bisogna stabilire diversi livelli. Certo è, la buona notizia qual è? Che in ogni caso i peli hanno una bella cosa, si possono eliminare. Ecco, è vero. E questo è il lato positivo. Non sono come i capelli che mancano e non sono difficilmente restituibili, cioè non si possono far crescere. Non solo, i peli hanno anche una loro funzione proprio di protezione dai raggi solari e dai danni ambientali, e anche una funzione importante sessuale, perché sono ricettacolo di batteri, quindi di odori. Odori sessuali che oggi magari al giorno d'oggi non piacciono, però Napoleone impazziva per l'odore. Dai, della sua donna. Napoleone Napoleone che amava la donna che non si lavava, anzi la pregava di non lavarsi, con tutti i suoi begli afrori, noi oggi li chiameremmo. Allora, abbiamo Fabrizio da Cuneo, Fabrizio Fontana l'abbiamo avuto prima, vediamo Fabrizio che cosa ci racconta. Buongiorno. Fabrizio è caduto. Ecco, Fabrizio è caduto, ma noi riprendiamo a chiacchierare con Alessandro Pellizzari e la dottoressa Seri. Alessandro, molti uomini oggi sono davvero infastiditi del pelo, dal pelo, si vedono sempre, hanno iniziato un po' gli sportivi e poi, sì. E poi io mi ricordo che c'era l'antesignano, il povero Pietro Taricone, è stato uno fra i primi a fare pubblicità alla depilazione maschile, e da lì vedo anche dai messaggi che ci arrivano, ci sono parecchi uomini. Io non so come facciano, perché già io ci metto 30 minuti a farmi la barba e mi costa. Ho trovato terrorizzante veramente la scenetta iniziale, perché effettivamente l'uomo non pensa al pelo come qualcosa che viene stirpato e provoca dolore. Come tu sai, l'uomo teme tantissimo il dolore. Assolutamente. Mi scrive Giulio dalla Sardegna. Ciao Nicoletta, il mio caso è come la teoria del vostro ospite pelo. Ho perso i capelli da tanto tempo e la schiena ora prolifera. Meno male che mia moglie si prende cura anche di me, sfoltendo l'eccesso di pelo. Dottoressa Serri, certo che le donne sono davvero pazienti. Oltre ad occuparsi dei peli propri, si devono spesso occupare dei peli del partner. Lo trova giusto? Giusto, sì, se c'è un rapporto tale per cui tu sei contenta di occuparti dei peli del partner, fallo. Certo è che oggi moltissimi uomini, anzi direi quasi tutti, se parliamo poi di ragazzi, il 100%, se hanno dei peli in eccesso, che noi li chiamiamo in eccesso, ma in realtà sono abbastanza fisiologici, Certo, ecco, sulle spalle, se li fanno togliere, vuoi con la ceretta, vuoi anche coi laser, perché i centri laser tripudiano di uomini che vanno a farsi togliere i peli che non gli piacciono, ma anche dal naso e dalle orecchie, lì sono oggettivamente bruttini. Lì sono bruttini. Fabrizio, l'abbiamo ripreso, buongiorno. Grazie mille, buongiorno. No, io volevo dire che periodicamente preferisco non radermi completamente, ma con il rasoio elettrico mantenere i 3 mm su ogni parte del corpo, quindi anche sotto l'ascella. Non mi piace l'uomo completamente raso, però i 3 mm trovo che sono puliti. Lei si è dato questa altezza, 3 mm. E come, sì. E oltretutto anche sulle braccia e sulle gambe, questi 3 mm che fatti una volta ogni 15 giorni, non è il caso di passarli tutti i giorni, però comunque anche esteticamente rendono un po' migliore, diciamo, la vista, anche perché completamente raso l'uomo non credo che sia bello da vedere. Però questo glielo diranno le nostre ascoltatrici. 349-238-6666, scriveteci: ci piace l'uomo rasato oppure l'uomo villoso? Alessandro, non ti vedo solamente così. Sei perfettamente sbarbato, tu sei villoso o vai di ceretta? Beh, io dovrei investire, diciamo, un'altra 2 ore in queste cose, quindi non ce la fai. Il problema oggi, cercheremo di prendere in rassegna tutte le varie possibilità che abbiamo oggi a disposizione per eliminare i peli superflui, ma prima cerchiamo di capire se il nostro, e parlo soprattutto da donne, è un problema puramente estetico o c'è qualche cos'altro. Dottoressa Serri, che cosa riferiscono le donne quando chiedono aiuto al dermatologo? Beh, innanzitutto premettono sempre con il sono disperata, perché i peli, non riesco a capire come, destano disperazione. Bisogna eliminarli nel modo migliore, quindi si elimina il problema. Quindi chiedono come toglierli e soprattutto come gestire i problemi che spesso e volentieri le depilazioni lasciano, quindi le follicoliti certo, all'inguine, le follicoliti sulle gambe, le pseudofollicoliti. Gli uomini hanno pseudofollicoliti alla barba, per cui possono avere problemi dopo la rasatura, ma questo magari non è il tema di oggi. Come togliere i peli, qual è il metodo migliore? E c'è oggettivamente oggi una vasta gamma di possibilità che vanno dalla rasatura semplice con rasoio manuale o elettrico, che non è assolutamente da esecrare, poi si possono togliere bene con la ceretta, per esempio dalle gambe, dall'inguine. Non consiglio in genere la ceretta nella regione ascellare, sì, perché si possono facilmente infiammare le ghiandole apocrine, che poi possono dare anche fastidio. Mentre nella regione ascellare suggerisco la rasatura con rasoio elettrico manuale oppure addirittura il laser o la luce pulsata. Dottoressa Serri, spesso noi faremo poi proprio una panoramica dettagliata per zone, per aree del corpo, e poi cercheremo di mettere a confronto questi trattamenti, perché ne parliamo tutti, ma vogliamo sapere anche le indicazioni e le controindicazioni. Ma spesso il dermatologo lavora insieme all'endocrinologo, e in linea con noi abbiamo il nostro professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia presso l'Università Cattolica di Roma, Policlinico Gemelli. Professore, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a voi tutti. Professore, abbiamo capito che la localizzazione e la quantità di peli sono due variabili che possono aiutarci a fare una distinzione, quindi capire se il problema è estetico o invece è qualcos'altro, un qualcosa che va comunque trattato, diagnosticato e indagato. La diagnosi naturalmente spetta a voi, ma ci aiuti lei. Possiamo provare a fare un identikit della donna che soffre di irsutismo? Sì, io non ho ascoltato la trasmissione prima, quindi non vorrei magari dire cose che... La definizione l'ha data già la dottoressa Serri e siamo a posto. Quindi irsutismo è una crescita di peli. Maggior parte, io concordo con quello che ha detto prima la professoressa Serri. Sono donne disperate per un problema che non è una malattia in sé, nella maggior parte dei casi. Noi endocrinologi definiamo una sindrome, che è poi quella che più frequentemente causa questo irsutismo, sì, come sindrome dell'ovaio policistico, che è poi una diagnosi di esclusione. Una volta che sono state escluse delle cause ben note, si parla di questa sindrome dell'ovaio policistico. E la sindrome dell'ovaio policistico è una situazione in cui si associa a un'aumentata funzione degli ormoni androgeni, sì, e questo può dipendere da un aumento del testosterone oppure da un aumento dell'attività del testosterone sui tessuti bersagli e quindi sul follicolo pilifero nel nostro caso, con la presenza di cicli alterati, cicli mestruali alterati, soprattutto la presenza di anovularietà e quindi di infertilità, e quello che va sotto il nome di ovaio micropolicistico, che erroneamente viene a volte scambiato per la presenza di microcisti nell'ovaio, ma che in realtà sta a indicare un aumento della parte ilare, lì dove sono presenti le cellule che secernono il testosterone, e quindi è un qualcosa che va fatto da ecografisti esperti in questo tipo di misurazioni, misurare la quantità di stroma a livello proprio del punto in cui i vasi sanguigni entrano nell'ovaio, è lì che ci sono le cellule che secernano il testosterone. Quindi la fare una di due o di tre di queste situazioni, ripetiamole, cioè, rapidamente prima dei mercati, cicli mestruali irregolari, i peli o l'acne, diciamo l'iperandrogenismo che si estrinseca con i peli o l'acne, e la presenza dell'ovaio micropolicistico. Due di questi tre, secondo i criteri di Rotterdam, definiscono la diagnosi di sindrome dell'ovaio policistico. Professor Pontecorvi, sono state escluse altre cause specifiche. Professor Pontecorvi, ci fermiamo un attimo, andiamo a sentire più di un attimo, andiamo a sentire i mercati e il meteo e poi torniamo per capire, fatta la diagnosi, come si interviene, e poi via i peli con la tecnica giusta, con lo strumento giusto. Cercheremo anche di sfatare alcuni luoghi comuni. Noi vi aspettiamo qui, 800 24 00 24. Guerra al pelo, insieme alla dottoressa Riccarda Serri, al professor Alfredo Pontecorvi, Alessandro Pellizzari qui in studio con me. Professore, abbiamo capito quali sono gli indizi che possono portare il medico a capire, dopo aver escluso alcune altre situazioni, che questi peli, che nelle donne crescono più abbondanti in zone dove non dovrebbero esserci, soprattutto zone dove di solito crescono peli maschili, può trattarsi di un irsutismo, e quindi lei ci ha aiutato a individuare il profilo della donna. Ma una volta fatta la diagnosi, come si procede? Allora, se la diagnosi di sindrome dell'ovaio policistico è una diagnosi complessa che richiede diverse strategie terapeutiche a secondo dell'obiettivo che si vuole ottenere, perché se il problema è quello del pelo, ne parleremo dopo, si possono utilizzare dei certi tipi di farmaci. Se il problema è quello invece di avere una gravidanza, perché come ho ricordato ci può essere associata all'infertilità, allora il trattamento è del tutto diverso e direi opposto. Certo. Molto spesso queste donne sono in sovrappeso, sono obese, e allora si utilizzano anche farmaci che fanno funzionare meglio l'insulina, perché in queste donne l'insulina funziona male, c'è la cosiddetta insulinoresistenza, e sovente funzionando meglio l'insulina si ha un miglioramento dei peli e si ha soprattutto un notevole ripristino della fertilità. Per quanto riguarda poi il pelo in sé, oltre agli interventi estetici di rimozione del pelo che sono stati ricordati prima, il laser, la luce pulsata, e anche, mi fa piacere che anche il dermatologo concordi sulla rimozione con il rasoio elettrico, anche manuale, perché non fa aumentare i peli come normalmente si ritiene, si possono utilizzare dei farmaci che bloccano la ricrescita. Quindi con il laser noi andiamo a distruggere il pelo in profondità, ritardandone di molto la ricrescita. Con dei farmaci andiamo a bloccare la crescita di nuovi peli, ed è quindi una terapia che richiede, prima di vederne gli effetti, un po' di pazienza, perché il ciclo di un pelo normale sul viso, per esempio, richiede dei 3 a 4 mesi. Quindi bisogna attendere questa. Un pelo di pazienza, tempo. Insomma, professor Pontecorvi. Grazie, professore, per essere stato con noi. A voi. Le auguro buona giornata. Dottoressa Serri, ci sono messaggi, devo dire, tante amiche di Essere Benessere, ma tanti ascoltatori che ci scrivono dei loro problemi e fanno anche domande curiose. Ad esempio, perché crescono i peli sotto le ascelle? Evidentemente il nostro ascoltatore non li vorrebbe. Perché abbiamo due gambe, non tre? I peli sotto le ascelle hanno apparentemente una funzione di tipo sessuale. Cioè sono proprio un ricettacolo di odori, perché crescono proprio laddove c'è una grande ricchezza di queste ghiandole apocrine, che sono delle vestigia della nostra animalità, che producono i feromoni che richiamano l'altro sesso. In effetti il sudore cambia odore anche a seconda degli ormoni. Nel caso della donna, della fase del ciclo mestruale, verrà tutti in mente quelli vecchietti come me, il pesce di nome Wanda, vi ricordate? Lui che si eccitava terribilmente, lei che si eccitava terribilmente a annusare lui. Ci tengo a dire una cosa, quando si parla di peli in eccesso è sempre tutto relativo, molto spesso questo problema riguarda le bimbe di 8, 9, 10 anni, che poverine si disperano perché oggi lasciamo perdere tutti i discorsi psicosociali sull'argomento sul quale ci sarebbe da parlare per ore, ma oggi le bambine cominciano molto presto a porsi problemi di tipo estetico. Sì. E le mamme si disperano perché dicono, oddio, mia figlia è pelosissima. Mm. Ecco, questi peli, numero uno, si possono schiarire, si possono togliere, non c'è niente di male, per evitare poi problemi e complessi, anche se la cosa migliore sarebbe poi parlare con queste bimbe, ma tendono con gli anni, cioè verso i 13-14 anni, andar via da soli, perché molto spesso le bambine possono, soprattutto sulle braccia, sulle gambe, essere un po' pelosette e questi peli poi tendono ad andare via. Quindi da un lato magari aiutarle, farglieli schiarire con queste sostanze schiarenti che ci sono, toglierli un pochino col rasoio come faceva quel signore di prima che diceva li rado a 3 millimetri, oppure proprio anche col rasoio manuale, non fa male, la mamma l'aiuto, se no parlare. Alessandro. Le mamme si chiederanno in questo momento, ma non è che io questa bambina che poi li perderà comunque fisiologicamente a 11-12 anni, se glieli taglio adesso poi si in qualche modo poi ricrescono, come dire, ci prendono gusto e continuano a crescere? Bisogna vedere, perché io che ho sai che io ho curato tanto tempo fa sul Corrierino, quando esisteva ancora, una rubrica di bellezza per i bambini che si specchio delle mie brame. Sai quante lettere di bimbe ho ricevuto che non andavano in piscina, non andavano al mare perché avevano vergogna dei peli? Sì. No, no, per cui noi bisogna proprio valutare un attimo e fare un bilancio sui vantaggi e gli svantaggi. Lorenzo ci chiama da Verona, 800 24 00 24, buongiorno a Lorenzo. Buongiorno. Io allora, premetto che ho sempre odiato l'uomo depilato, diciamo che nel mio immaginario l'uomo doveva essere peloso. Poi qualche anno fa, quando ho conosciuto mia moglie, che invece aveva un'idea totalmente opposta di questa visione. Lei l'ha conosciuta, quindi scusi Lorenzo, che era peloso. Sì, non eccessivamente, perché io non sono granché peloso, ma per mia moglie lo ero. Sì. In quel momento, tra l'altro, io vivevo come un problema, una cosa che capitava a me, cioè io avevo perso i peli sulla gamba nella zona del calzino, diciamo. Sì. Quindi io mi ero ritrovato ad avere uno stinco mezzo peloso e mezzo no, e questa cosa a me non piaceva. Unita al discorso di mia moglie che voleva l'uomo non peloso, per gioco abbiamo iniziato a far la ceretta e così. Ecco, io da quel momento ormai sono 4 anni che depilo costantemente tutto il mio corpo, perché sinceramente dal punto di vista mio dell'autostima ne ho tratto dei benefici, cioè a me il mio corpo piace di più senza peli, lo vedo più scolpito, lo vedo più definito e mi piace di più la sensazione del braccio liscio, ecco. Così, quindi io ormai quindi sono una conversione più. Lorenzo, esatto. Grazie. Patrizia da Bologna, buongiorno. Grazie per l'intervento. Io volevo chiedere questo, una bimba di 10 anni che già ha molti peli sotto le ascelle, anche se non ha ancora effettuato il mestruo, e anche sulle gambe, e quando si muovono gli ormoni odora molto, e quindi mi chiedevo se è possibile già cominciare a depilarsi, come lei mi chiede, nelle ascelle, oppure se eventuali deodoranti potessero danneggiarla a quell'età per la crescita delle ghiandole sotto le ascelle. Grazie dottoressa Serri. Patrizia, cosa può fare? Certamente si può radere col rasoio per benino, pianino, manuale o elettrico, soprattutto la zona delle ascelle, perché se una bimba comincia già a dare i segnali del menarca in arrivo, è chiaro che ha degli odori particolari, si sente a disagio, e poi probabilmente conviene portarla a fare una visita ginecologica. Oggi le ginecologhe con le bimbe non fanno più la visita diretta nel corso della prima visita, ma fanno due chiacchiere, fanno un'ecografia, e questo può essere estremamente utile per una gestione futura e sana della salute della bambina. Io saluto il professor Antonino Di Pietro, che ci ha raggiunto, dermatologo plastico a Milano e presidente ISPLAD. Professore! Buongiorno a tutti. Ma buongiorno! Voglio leggerle subito un messaggio che ci arriva da Luigi, prima di andare a dare le informazioni sul traffico. Ho provato l'epilazione laser alla schiena per un anno, al costo di 3.000 euro. Terminato il trattamento, in 14 mesi sono ricresciuti praticamente come prima. Professor Di Pietro, ma questi peli possiamo liberarcene completamente, come si legge da qualche parte, o dobbiamo in qualche modo, no, accontentarci di avere una significativa, sottolineo significativa, riduzione? Ah, è più giusta quest'ultima cosa. Eliminarli del tutto è estremamente difficile, anche perché bisogna riuscire a colpire il pelo con il laser quando è ben infisso in profondità la sua papilla germinativa, il punto da cui il pelo origina, e solamente se viene distrutta questa il pelo non origina più, ma col ciclo del pelo questo diventa estremamente difficile, quindi bisogna accontentarsi di uno sfoltimento, e solo quando i peli sono molto grossi e si usa il laser in maniera corretta si può sperare che non ricresca più. Laser, terapia fotodinamica, cerette, la luce pulsata. Tra poco, prima andiamo a fare un giretto per sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. La dottoressa Serri, professor Di Pietro e Alessandro Pellizzari restano con noi. Dottoressa Serri, le affido il laser, ci spiega come funziona, in quali parti del corpo è indicato, se è davvero costoso come mi scrivono gli ascoltatori, e se ci sono delle controindicazioni, e poi il professor Di Pietro invece ci aggiorna, no? Facciamo laser, luce pulsata e questa terapia fotodinamica. Dottoressa Serri. Allora, c'è appunto laser e luce pulsata, e adesso ci sono anche degli apparecchi domiciliari per la luce pulsata, che funzionano, devo dire, abbastanza bene. Funzionano questi ultimi, sono piuttosto delicati, nel caso in cui il pelo sia scuro. Sui peli biondi, rossi o bianchi non funziona. Il laser, come diceva prima il mio amico Antonino, funziona quando è bene utilizzato. C'è laser e laser, c'è tecnico e tecnico. Io ho visto anche dei disastri da laser. Per cui bisogna affidarsi a un esperto. Ci sono laser poi utilizzati in studi medici e laser molto più delicati utilizzati in studi estetici, che faccia sulla propria pelle, cioè sulla pelle individuale, un programma. Bisogna sapere che certamente i risultati migliori si hanno quando c'è una peluria più scura, perché il raggio laser è catturato dal colore scuro, molto meno dal biondo, dal rosso e dal bianco, e così pure la luce pulsata. Però con pazienza si possono veramente ottenere dei buoni risultati, nel senso di un rallentamento della ricrescita, di un diradamento e di un assottigliamento dei peli. Non si può certo parlare di una depilazione definitiva. Il povero signore che ha speso 3.000 euro e si è visto ricrescere tutti i peli mi ricorda molto la situazione di chi spende 3, 4, 5.000 euro in centri che fanno ricrescere i capelli e non si vede ricrescere neanche un capello. Purtroppo magari sono qualche cose pelo che succedono. Bisogna sempre affidarsi a centri seri e non a centri che sparano pubblicità a destra e a sinistra. Qui bisogna imparare a diventare un pochino. Noi impariamo purtroppo, però, dottoressa Serri, sulla nostra pelle. Certo, e purtroppo però io non me la sento qui davanti a tutti di parlare male di nessuno, capisci? Certamente è un ottimo sistema la depilazione laser, che va benissimo soprattutto nel caso di persone che hanno veramente tanti peli e si vogliono liberare dell'incubo della continua depilazione, o perlomeno vogliono associare a una depilazione manuale con ceretto, con rasoio, un diradamento dei peli ottenuto con laser o con luce pulsata. Si possono fare sulle gambe, sulle braccia, sul viso, sui baffi, addirittura li fanno nelle orecchie, nel naso, sull'inguine, sull'addome. Professor Di Pietro, però bisogna avere che siano scuri e bisogna essere anche un po' ricchi. Ci sono anche delle novità sui peli che non sono proprio scuri. Ci sono novità, ma solamente 2 secondi per gli ascoltatori. Io consiglio sempre di farsi mettere per iscritto che i peli non ricrescano più. Allora a volte si va in questi centri e dicono: io ti propongo 5-10 sedute di laser e i peli spariscono. Benissimo, allora facciamoci mettere per iscritto questa dichiarazione, allora ci si rende conto che le stesse persone poi dopo tergiversano e di certo questa cosa non la scriveranno mai. Allora questo può essere un consiglio. La stampante non funziona, gliela faccio domani. Farsi mettere per iscritto le promesse, perché così poi se questo non succede, carta canta. ma i peli più chiari, che sono un grosso problema, perché il laser riesce ad agire sul pelo scuro perché interagisce e capta la luce del laser o la luce pulsata. Recentemente si stanno ottenendo dei buoni risultati sui peli chiari, che sono refrattari, su cui il laser non può far nulla, peli chiari, biondi, bianchi addirittura, con la terapia fotodinamica. Si applica una crema su questi peli, questa crema viene assorbita molto velocemente dal pelo e non dalla pelle, e quando poi la si illumina con delle lampade particolari, il principio attivo diventa tossico per la cheratina, per il pelo fino al bulbo, e lo distrugge, lo elimina. Ecco, questa è un po' una new entry, una novità, se ne sta parlando recentemente in tutti i nostri congressi di dermatologia, ed è decisamente interessante perché agisce su tutta quella fascia di peli, peluria, su cui prima si era un po' inermi. Davide ci chiama da Perugia, 800 24 00 24. Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ascolti, chiamo per porre due quesiti. Il primo è, io sono una persona molto pelosa e esteticamente risolvo rasandoli i peli, non depilandomi perché è troppo dolorosa la depilazione. Mi raso, però l'interrogativo mio è: rafforzo i peli rasandoli, li accorcio e portandoli non proprio a pelle, però quasi. Il secondo quesito invece, anche se in parte credo che abbiate risposto, è questo: io ho una compagna fissata un po' più eccessivamente per la depilazione, vorrebbe farsi la depilazione definitiva sulle gambe. Ora, io seguivo la trasmissione, non ho ben capito se la depilazione definitiva che le è stata proposta sarebbe la depilazione effettuata con il laser, però siccome gliela volevo regalare io, il punto è, a parte la costosità, perché non è economica come... Soprattutto se ha le gambe lunghe, Davide, la sua compagna. Bisogna, meglio, andiamo meglio noi bassette in questo caso. No, sto scherzando. Ovviamente sì, ma lei tra l'altro è anche poco veloce, io non vorrei che la facesse. Senta, allora, rispondiamo rapidamente a Davide, dottoressa Serri e poi professor Di Pietro. Dottoressa Serri, per i peli, se li tagli, diventano più folti? L'abbiamo ripetuto tante volte, ma è proprio un luogo... Piccolini, si vedono questi tronchettini che crescono, è un po' una diceria. Io vedo le americane, si rasano tutte sotto la doccia senza tanti problemi. Siamo noi che tendiamo a spingere molto i trattamenti più che si fanno più magari dall'estetista, forse e vanno benissimo, per carità, ma non bisogna demonizzare la rasatura, che rimane comunque dal punto di vista proprio dello skin care dermatologico il sistema di rasatura più delicato, se vogliamo, e meno invasivo quando ci sono. Professor Di Pietro, Davide vorrebbe regalare alla sua fidanzata, dalle lunghe gambe, poco pelo, ma insomma ce n'è qualcuno, una depilazione definitiva, dice, ma insomma noi abbiamo già chiarito che di definitivo, infatti, per fortuna c'è solo una cosa. L'unica cosa che potrebbe fare per avere la certezza di non fare un regalo fasullo, quello che si dice una patacca, e farsi rilasciare questa dichiarazione, un po' come andare da un gioielliere che ti rilascia una dichiarazione che il diamante è vero e non è falso. Quindi se riesce a farsi rilasciare una dichiarazione da un centro che fa la depilazione, in qualsiasi altro luogo che faccia una depilazione, in cui c'è scritto: io sì, ti prometto la depilazione definitiva, non ti cresceranno più, te lo firmo. Ecco, allora può essere veramente un bel regalo, altrimenti consiglierei di cambiare regalo. Trovo veramente geniale questa cosa del professor Di Pietro, che ha inventato il consenso informato della depilazione a questo punto. Professor Di Pietro, hai ragione, sai cosa succede però? Che si parla di consenso informato sui danni che possono venire, certo, no? Ma e non sui risultati. Del risultato, che invece dovrebbe essere la primaria. È un consenso informato un po' tarocco, però, perché deve essere anche così. Fra l'altro, una bella cartina di tornasole sulla professionalità delle persone. E là, anche la dottoressa Serri è stata molto chiara sul definitivo, che è la prima domanda che fanno tutti. Ecco, però voglio dire, abbiamo capito che non è definitivo, che bisogna beccare il laser giusto, che bisogna beccare il pelo nella fase giusta, ma se io devo investire tutti questi soldi e mi va bene, cioè tutti questi elementi ci sono, quanto tempo, occhio e croce, posso contare? Su che tempo posso scommettere di dimenticarmi la lametta? Dottoressa Serri, rapidamente. Dipende proprio dalla risposta individuale anche, perché il nostro sistema biologico umano non è così prevedibile. Comunque io direi almeno un anno di almeno un anno. Un anno di tempo. Dipende da quanti peli hai, che peli hai, dove li hai, le sedi. Insomma, dipende dai peli, tutto, no? È il pelo che fa la differenza. Io voglio salutarvi e in chiusura voglio ricordarvi che noi da ieri abbiamo iniziato e oggi partiamo con consigli quotidiani per ridurre il consumo di sale. Una bella sfida che abbiamo lanciato insieme al Mario Negri di Bergamo, consigli sul nostro sito, su Facebook, e agli ascoltatori che hanno chiesto di ricevere il consiglio via email, ci hanno scritto essere benessere@radio24.it. Un pizzico in meno, tanta salute in più. Fra un mese rimisuriamo la pressione e vediamo se la diminuzione del sale ha fatto bene alla nostra pressione. I dati, gli studi dicono così, e perché non approfittarne? Un saluto ai miei ospiti, un saluto a voi che ci avete seguito. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Un pizzico in meno, tanta salute in più. Giovedì. Oggi inizia la sfida. Allontana le tentazioni. Non mettere il sale a tavola. Un piccolo passo che ti porterà lontano. Essere e benessere.